I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. I dati diffusi ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi degli italiani relative al 2013 contengono alcune novità, ma purtroppo molte conferme. Partiamo da queste ultime. Le conferme sono quelle di una fotografia della ricchezza degli italiani che ancora non corrisponde a quella reale del paese. Difficile immaginare che veramente 46 italiani su 100 guadagnino meno di 15.000 euro lordi, che 49 italiani su 100 guadagnino meno di 50.000 euro lordi, tra i 15.000 e i 50.000 euro lordi, che solo il 5% di tutte le dichiarazioni dei redditi veda gli italiani guadagnare più di 50.000 euro lordi e che chi guadagna 300.000 euro lordi sia solo lo 0,1% dei contribuenti, pari in tutto a 30.000 cittadini. Le novità arrivano invece sulla pressione fiscale di carattere locale. I dati sono relativi al 2013, però già lì si vede una tendenza che, stando a quanto si registra negli ultimi mesi, è rimasta invariata e anzi forse aumentata sia nel 2014 che nel 2015, ossia il ricorso da parte degli enti locali a un aumento della tassazione di loro pertinenza, le cosiddette addizionali regionali e comunali. Pagano di più le regioni del sud, anche perché scattano vincoli fiscali automatici per sforamento del deficit sanitario, ma è incontrovertibile che a una riduzione dei trasferimenti dallo Stato centrale agli enti locali sia avvenuta e stia avvenendo un aumento della tassazione di carattere locale, con il rischio di aumentare la tassazione complessiva e di rendere vani, se non inutili, i tentativi di ridurre la tassazione per quello che riguarda la pertinenza nazionale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Mentre in Europa il quadro della disoccupazione rimane preoccupante dall'Italia alla Spagna, in America ci sono dei segnali di stabilizzazione. Anche se i nuovi posti di lavoro creati nell'ultimo mese sono stati soltanto 126.000 in più, tanti per noi, ma evidentemente pochi per quanto pensano gli economisti, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,5%. Le imprese americane hanno un po' rallentato le assunzioni, però hanno fatto qualche cosa di più per i loro dipendenti. Le grandi corporation, dalla grande distribuzione, pensiamo alla ristorazione, come ad esempio McDonald's, ma anche i suoi concorrenti, hanno aumentato gli stipendi orari dei propri dipendenti, un modo per restituire quel boom di profitti che hanno fatto negli ultimi anni. Ma che cosa significa per noi questo tasso di disoccupazione stabile degli Stati Uniti? Significa che i mercati finanziari continueranno probabilmente a brindare al quantitative easing della BCE e al denaro facile ancora della Federal Reserve. Il rialzo dei tassi, con la disoccupazione stabile al 5,5%, è infatti rinviato, probabilmente a fine anno. Questo significa che per i nostri BTP, per i bono spagnoli e in generale per il mercato dei titoli di Stato e per quello dell'azionario, potrebbero continuare nei prossimi mesi il trend positivo che abbiamo visto finora. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.